Lemmy nell'82 come pezzo solista. Ecco, Robert. Dimmi. E Santana, Europe, in che anno l'aveva fatta? Negli anni 70, dovrebbe essere, esattamente non me lo ricordo, quello dovrebbe essere intorno al 74, 73, così. Neanche mi ricordo che era da parecchio tempo che era venuta fuori. No, ma stavo ascoltando Luca, no? Gli ho detto, perché non vai alla Birdland Music e presenti quel brano che stavi suonando così? No, è un dono innato e non ci vuole andare. Tutto è perso per lui. Guarda, chi imparava a suonare la chitarra è uno dei più comuni dell'Europa di Santana, come pezzo per imparare a suonare. Sì, ma non capisco perché lui non ci vuole andare, vabbè, pazienza vuol dire. Non gli interessa il successo, come dice qualcuno. Mo, io ho conosciuto Andrea Parodi di Tazenda, però vabbè, Parodino è morto. Ne ho conosciuto tanti e io sono tutti nelle feste. E vi posso dire che Luca suona bene, poi della luce. Luca, ti va le serate, ti va le dinà. No, no, non è questione di serate. Io mi sarei presentato proprio per perfezionare il mio modo di suonare. Mi dirai, ma ci sono tantissimi chitarristi, ma sei innato, inutile, come Paolo Frisu. Quando io dicevo al suo paese diceva che era una bestemmia, invece assolutissimamente, c'è la finita New York. Sì, quello è d'accordo. Poi quando c'è una scuola che ti insegna, io ho mia figlia da piccolina, gli piace, non gliel'ho vietato, l'ha già andato visto la chitarra, ha detto comprami la chitarra, l'ho comprata, adesso sta, mi ha iniziato di nuovo da lunedì, anzi da venerdì, è ripreso il terzo anno, però ci va proprio volentieri, ho detto no, questa non lascia stare, gli ho detto che stai facendo anche sport e altre cose, ho detto no, ci voglio andare, l'ho mandata, gli piace. No, ma senti. Questo è Mark Knopfler, il chitarrista dei Dire Straits. Sì, no. Allora, se non mi sbaglio, in quel long plane c'era presentata una chitarra, che non mi ricordo il nome di quello strumento, come era definita, che era una chitarra color argento, bellissima, che gli aveva fatta forza un grande liutaio. Nell'LP stai parlando? Sì, nella foderina. Ma sinceramente non me lo ricordo, c'è una chitarra, sì, c'era già una specie di chitarra fatta a stella, sì, perché ce l'ho l'LP, quello lì, adesso non me lo ricordavo bene. Vabbè, mi sento qua. Allora, vabbè, il tocco che hai tu non è di meno, vuole solo perfezionato e basta. Vedi tu, io te l'ho detto, poi fai come vuoi. Lo prendo bene. Vedi, la buona leva di tu, ma non me ne frega niente, Giovanni, io sono così, tanto per. Non mi interessa proprio, guarda. Ho detto, se mi piacerebbe suonare in un gruppo sassarese, la verità. Devo essere sincero, ma a fare queste cose qua non proprio non me ne sbatte, non sono cose che io amo, dai, diciamo. Così le suono, ma qualcosina che so, basta, tutto qua. Cosa stavo dicendo? Non me lo ricordo più. Vabbè, Roberto, la figlia sta suonando. No, sta imparando a suonare, però gli piace, cioè è una cosa, quando uno gli piace una cosa la fai più volentieri. Per dire, io non quest'anno non la volevo mandare perché sta facendo, cioè coincide con l'orario dell'allenamento, Meno male che il maestro ha detto che la fa andare, sono quelli della scuola, quelli che fanno fare i corsi, come si chiamano, quelli serali che ti fanno fare alla scuola. Lei ha scelto la chitarra, doveva andare lo stesso giorno all'allenamento, ho detto scegli, tu stai facendo calcio all'allenamento, cioè non lo puoi mollare per fare la chitarra. Ci siamo andati, il maestro dice glielo fa di mercoledì, ci sono altri bambini e glielo fa, però gli piace, lo fa proprio con passione, la vedi, lei si appenta. Poi non so se voi sia bravo, il maestro dice che c'ha talento, che gli piace. Guarda, se le piace Robert, lasciala fare, perché se continua, come dico io, quella diventa bravissima. Se le piace veramente, ti deve piacere la chitarra, se non ti piace metterla da parte. Fatti così, la vuoi la chitarra, scordatela. A me mi sarebbe piaciuto tantissimo suonare la chitarra o le tastiere, ancora meglio, però purtroppo non ho pazienza, io sono così che devi farle subito le cose, non ho però, come la pesca, la stessa cosa, non ho pazienza, o vai peschi subito, se non nuda, così sono gli strumenti musicali, il campanello su cui suona e buff. Quello blackso della macchina. Quello grasso. No, ma la chitarra poi è una cosa innata, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Va bene, vediamo un pochino, abbiamo monopolizzato un casino e tutte le donne fuori, che bordello, che macello, Pierpaolo, vediamo un po', Teresa. Ma niente, c'è una futtiella, Rita ci dovrebbe essere, Rita. Ehi, sono all'ascolto. E perché sei nasina? Nasina, sempre la matessia, già. Come? Sempre uguale, non cambia? Stavo ascoltando così. No, che microfono cosa? No, questo è un baracchino Elbex 2230. Quale poteva essere? Elbex. Uiuia. Arrascia parecchio. Stavo dicendo, Giova, quel pezzo lì del Dian Street, cioè questo Tony, cosa fa a fare? Tu lo devi vedere. La gente a bocca aperta rimaneva. Guarda. Cioè, va qualche mese più di me. 33 anni rotti, ma suona la chitarra non ce n'era per nessuno, veramente bravo, bravo, proprio faceva parlare la chitarra. E così si vede, ma stavo dicendo qualcosa lì, me l'hai calpestata, lì. No, scusa Rita. Rita. Ehi, alza. Sì, no, ho detto Luca, stavi parlando, ti hai calpestato, tu hai il bec, ma qual è quello piatto con il led come smitter? Me l'ho preso per la macchina, me l'hanno prestato per la macchina. Oh signore mio, arrasto barroccio. Ti piaci? Boh, io non ne so. Cosa mi devo mettere secondo te? Uno da base in macchina? No, ma quella è una schifetta quella roba là. No, Elbex, proprio quel modello era il più difettoso che esisteva sulla faccia della terra. No, è tutto scalato la roba lì, nascevano così. Già va bene, già va bene. Se mi stai ascoltando vuol dire che sta uscendo bene. Tu puoi dirmi poi. No, ma tu tutta quanta masticata, capito? No, come vuoi, puoi uscire come vuoi, non ti preoccupare. Sembra la citofono parlando. Cosa hai detto lì? Sto mangiando la chingomma, mi ha detto che sta uscendo tutta masticata. Ah, va bene, sì. No, non mi guarda, lo faccio dire da Roberto se non mi chiedi, Roberto. Sì, lo confermo anche io, no, esci molto meglio con l'altra parata, sembra che stai parlando da un citofono, c'è la modulazione di un citofono, cioè la risposta, la modulazione è tutta troppo chiusa, non c'hai niente, non c'è tonalità. Lo so, vabbè, ma quello là è un 48, questo è un Airbag. È un 49. 30, cioè, no. Ah, veramente gli darei, come numero gli darei 0,1. Quello veramente il Midland, esci bella, chiara, pulita, ma non puoi collegare qualche altra cosa, sto facendo fatica ad ascoltarti. Io non vado a fare, cosa devo fare? Il mio l'hanno ricoverato perché aveva mal di pancia. Corri. Ehi, Alu. Collega il campanello. Sì. E risponde, Tindong, Giovanni, Tindong. Dai, solo per oggi mi ascoltate con questo, poi mi sentirete dalla macchina con questo. Che bello, che bello, che bel apparato, come modula bene. Figlia in giro, figlia. No, io sono sicuro, no, siccome lo conosco a memoria quell'apparato, non ce l'ho avuto, l'ho buttato al cane, una mattina ce l'ho avuto, siccome allora... Al cane. Era a casa di mamma, no? Avevo un cane che si chiamava Fagitto in sardo, appena che l'ho provato, Stefa G, tutto l'ha pisciato, tutto addentato, tutto l'ha calpestato. Mamma mia, il mio cane ci ha fatto, Marianna ci ha fatto una vita con quell'apparato. Visto, si è messo a parlare anche lui. Ho sentito, cosa hai detto? Si è messo a parlare anche lui. Oh, no, il cane è godeva, ci filava i denti nel frontalino. Crack, crack, ancora me lo ricordo. E io l'ho dato davvero, Col capo... Il cane c'ha 140, Rita. Quello non riusciva a fasciarlo facilmente perché allungava. Avanti, vabbè. Ha detto Gianni, il cane c'ha 140, non ne usa baracchini, c'ha la licenza di amatore. Il cane tuo? No, il cane tuo, Rita. No, il mio cane, non si abbassa così, assolutamente. È un cane da caccia, non è in casa, è in campagna con babbo. È un cane da caccia che ci vale quanto un'automobile, è un setter puro. No, capito, no, quello è un cane tutto, lui è un cane tutto particolare, capito? Quando metti in moto che parte alle frecce anche tutto. Ma se è un cane che ci vale quanto un'automobile, ce l'ha almeno intanto lo stereo. Sì. Aspettate che c'è una musichetta di Natale, avanti. Sì, questa mi piace. C'ho una mela per Maria di Schubert, attacca, io Pierpa. Facevi sentire la mia registrazione tramite barracchino. Ti registro io, aspetta. Registra, fai quello che vuoi. Io devo collegare tutti i connettori dalle prese di servizio, non altro con te. No, ti ho promesso che ti registro, ma non in questo momento, non ne voglio, hai tutto il giorno con il connettore. Compreso. Aspetta. Fastidio, svia. Allora, rimanente, poco rimanente. Vai, fai un passaggio, gioco. Ma vediamo un pochino, con mi ascolti. Da, voglio sentire come riesci a fare registrazione, va? Aspetta. Salva. Tore. Penso che. Aspetta. Vado in archivio un attimino. Vediamo un po'. Allora. Vediamo un po', aspetta. Scusate, vado a prendere il fucile che mi ammazzo, se quello ero io. Allora io, vuoi sentire qualcun altro, aspetta. Vuoi sentire qualcun altro. Questo è per il Paolo. Sulle campane. Ha detto le mani qua, uno vuoi c'è bomba. Aspetta, Luca è morto, ascolta qui Rita da Virgilio. Vedi un po' come mi ascolti con questo barattino. Questa è Rita, Sulla capsula del microfono per cantare. Sì, ma questa è Rita Racchia, capito? Quella che sento io mi sembra più bella come missione. Ma va là, è tutto quanto storpio. Pierpaolo non è proprio lui. Allora, manca di basso, medio alti, gli alti graffiano ed è tutto sfasato. Col telefono sta registrando, vedi Gianni? Le ha di l'inculo, lui, adesso mi sono spaventato. E come fai a riprodurre? Ma stai scherzando? Ma io pensavo una registrazione ai fai. Arra queste cose da Portugal, boh, riprendili. Cosa sono? Grazie. Sì, sei pare di una tumarruda. Hai sentito, no? Prendi a calci nel sedere quell'impianto qui in casa. Sai chi ci ha fatto sentire la registrazione tale e quale, già? Sì, buono, so. Ma conosci la cosa, Massimiliano Archimede? Massimiliano? Sì, mi pare che l'ho sentito qualche volta. Vabbè, radioamatore questo, qualche volta è entrato con le registrate in digitale, lui col computer ci ha registrato, ma le registrazioni erano perfette, cioè come la sentivi in natura, diciamo, come quando la trasmettevi, queste sono tutte modulazioni completamente sfasate. Sì, no, ma è inaccettabile. inaccettabile, capite? A parte che, vabbè, la fedeltà, la cioè, quelle vanno bene, per se uno deve prendere un appunto, tipo, alle 7:15 uscendo di casa mi calpesta il pullman, non mi trovano né a me né al telefono. Lu, ri, cazzo che non mi risponde nessuno. Ri! Ehi, a Giova. Sì, perché non mi rispondi? Che stai facendo? C'è le belve io qua, no? Come? C'è le belve da controllare, quindi ogni tanto mi allontano. Giova. Ah, già è vero che tu lì hai due Doberman vicino. Che sono nervose stasera. No, no, una è addormentata e l'altra voleva la pastellina, quindi è sovodante. Una addormentata e l'altra è dormita. Giova, aspetta un attimo, con il microfono normale, vediamo un po'. Aspetta, eh. Aspetta, la baffa a Napoli, che... Uffa. Sì, è così che bisogna fare in quei telefonini. Bisogna farsi schiacciare dal pullman alle 7:15. No, non c'è fedeltà, lui manca completamente di focalizzazione il suono. E cosa ti posso dire? Boh, è tutto spampanato. Lo so, Giova. Lo so che col telefonino viene male. Magari ce la fai meglio con una radio, un registratore. Con quello sì. Eiaia. Sì, vabbè. Già va bene, già va bene. Cava. Boh. Vediamo un po' se Rita riesco a sentirla. Io so, vuoi mettere qualche filtrino. Ri. Ehi, già. Giova. Ehi, dai, vieni avanti. Vediamo un po' se riesco a rimediarti con qualche filtro, perché è allucinante. La stai sentendo a te? Vabbè, la stai sentendo come sta facendo? La senti? Sì, no, infatti è quasi al limite della comprensibilità, anche io, a me non piace, l'ho sempre ascoltata bene, ma oggi no, non mi piace, è appena comprensibile. Non lo so da cosa è, lo sai dove ci ho messo come capsula, quella del microfono, che dove canto? Vabbè, scusa un attimo, aspetta che sollevo appena qua, era bassa poco fa. Allora, il problema è, io la sento, non dico bene, però è comprensibile, dai, non è che sia proprio messa male. Il problema è che dobbiamo stare accontentare, non è che, se dipende da Diguglio, a Sabizzina, a Diguglio. Purtroppo non esce così perché al momento non ha altre apparecchiature. Non è che, però rimane l'essenza, si è fatto prestare quello. Comunque, io la sento bene, senza, sì, è un po' nasina con la modulazione. È abbastanza comprensibile, roba. Aspetta. Ridi, scusa Vizzi, ti stiamo facendo a bicculi lì. Infatti adesso chiudo così non mi ascoltate, dai. Beh, fai brava a richiudere. No, aspetta. Se parlo con muro. Non è niente di personale, attenzione. Però è vero, ci sono dei passaggi che arrivi al limite della comprensibilità. Ma per me può continuare anche 5-6 ore. Però è totalmente distorto, va bene, no, continua a modulare, lascia perdere, stiamo sottendo, non è che lo sai che noi giochiamo, no? E come mai Luca mi ascolta bene e voi no? Non ho capito quello, se è bene, oddio, non è bene, è bene, però già mi ascolta. Allora, perché c'è un baracchino io. Prima che io sono più distante e quindi il segnale è inferiore, no? Bisogna saperlo trattare. Ti sto ascoltando con un apparato, insomma, abbastanza recente, con delle cuffie, credo, abbastanza decenti, con un filtro inserito, perché se no ti sento solo oh, capito? Tu considera che io sono più distante, Rita, almeno questo. Andà bene. Roberto si dovrebbe sentire appena meglio, siccome gli apparati professionali hanno più risposta sulle basse frequenze, essendo che lì gli altri praticamente sono triturati, e niente, non si capisce correttamente. Vediamo un po', Roberto, avanti. Mia Mondino, beh, Mondino è la stazione numero uno di Alghero. Pensate un po', sta usando una suola di scarpa per modulare. Buonasera, Mondino. Io vieni avanti che c'è Roberto, Rita, ci siamo tutti, dai. Sì, no. Sì, ciao Mondi. Ciao Mondino, buonasera. Ciao, un bacione Mondi. Senti, Berri. Sì, sì. Aspetta, adesso che la morsolaranno lì. Mi parla di Gudu in chat. Cosa? C'è l'agricoltura in chat, per Maloso, siamo messo il link per Maloso adesso. Ti che è bruciato. Aspetta che sono curioso. No, una belva che sta piangendo, quindi a volte non ti sente. Come? Non ho capito, cosa hai detto lì? No, che c'era Giulia che sta piangendo e quindi non vi sentivo. Ah, e vabbè, poverina, là. Anche lì ha avuto una giornata pesante. C'è dei bambini che conosciamo a una certa ora, mamma mia. Ehi, dai, bianco un attimo, Robe. Ehi, comunque il segnale di Rita, qua è nuovo, vedi, il segnale è forte, però la voce è come che sta parlando strozzata, cioè si sta tagliando tutte le tonalità. Di un citofono di quelli che escono pure male, secondo me. Cioè, senza criticare, io dico, non posso dirgli che la sento bene quando la sento male. Oggi, attualmente, in questo momento sta uscendo male. Il segnale è forte, però la radio è scadente. È forte, è comprensibile, però non è al 100%, sarà al 10% del costo, delle possibilità. Oh, Robe. Sì, dimmi. Bella modulazione. Robe. Dimmi. No, come avevo sistemato il cavo spiralato qua, che avevo l'ossido che si comportava come regolatore di tono praticamente nei confronti del segnale BS. Mi dirai se mi ascolti più nitido. Dovrei attaccarti l'altra per darti una cosa effettiva, diciamo, a orecchio non ho sentito differenze, non lo so, cioè dovresti fare due passaggi per vederlo, per sentire anche. Sì, non c'è problema, no, non fate niente, guarda che solamente spezzato il cavo e rimesso a posto, basta, non più. No, volevo sapere appunto, andiamo ad attaccare l'altro, boh, vedi un po', magari, no, giusto il responso così, no? Se sui medio-alti riscontri una maggiore ampiezza. Sì, fai. Fai, che intanto rilancio Rita qua. Rita stavi dicendo? No, c'è la bambina. Lui. Va. Open cut. Rita. On. Ciao. Mo, io sono 9. Io sono più 9. Mi ha dato qualcosa da parte mia? Mi sembra che sei più liscio, nel senso meno amplificato. Ah, meno amplificato dell'altro, addirittura, vabbè. Mi sembra, vabbè, poi ti devo controllare perché... Aspetta che tu mi filtro, prova. 1, 2, 3, prova radio. E ti sento bene, più amplificato, veramente più nitido. Più fedele, diciamo, con modulazione. Esatto, la definizione giusta è quella, più fedele. Ma poi se volevo fare una domanda riguardo di quel filtro che mi avevi detto, se non monopolizziamo. Aspetta Luca, vai. Luca, ci sei? Ehi, vai, Roberto, sono qua, allora, fatte, non c'è problema. Fatte. Mi hai dato il riscontro, Roberto. Scusa, dimmi, ripeti. Non mi hai dato il riscontro dell'emissione. Guarda, secondo me potresti sollevare un pochettino, adesso sto guardando su quelle indicazioni che ho io come parametri base, potresti sollevare un pochettino come livello. No, non mi interessa il livello, non mi interessa, non... il prodotto di uscita da fare finale deve rimanere sicuramente così, no, non c'è dubbio. No, voglio sapere se hai più toni alti, ecco. Ma rispetto a che cosa? Cioè fammi i due parametri, rispetto a che cosa? Le altre volte che ti sentivo dici? Esatto. perché l'ho fatto forse una settimana, sicuro era lì che andava molto. Cioè tu dici che adesso dovresti avere più tonalità secondo quello che dici tu, quello che pensi tu? Non quello che penso, quello che ho riscontrato con tutti. Con tutti, almeno quelli che hanno apparati in serie, anzi conto che ce ne sono accorti tutti. Diciamo a memoria non ti posso dire niente di preciso, perché adesso ti sto guardando, con la modulazione va benissimo, ottima, bella, chiara, presente, però non, sinceramente non mi ricordo se eri un po' più esaltato di acuti o meno esaltato. No, vabbè, non niente, roba, niente di impegnativo. No, ma non ti preoccupare, dai, mi dai di questo filtro adesso, dai, non ho capito cosa ha fatto riferimento, avanti. Allora, per col filtro di alimentazione per rientri di radiofrequenza, mi avevi detto di quei condensatori, non ci sono problemi, il posizionamento. I dubbi mi stanno venendo per quelle VK200. Dubbio. In serie, come fosse un interruttore. In serie un polo e nell'altro polo, e prosegui. Allora, immaginati il filo, lo spezzi e ne metti una, spezzi l'altro e ne metti una, e il condensatore li metti invece in parallelo. Buff, uno da una parte, all'ingresso, le due inducenze e una all'uscita. Buff. Ah, le cose, mi ha detto di metterle in serie. Non ha messo i buchi combinelli, in corto la possiamo vendere. Sì, vabbè, no, sto dicendo fesseria, scusa, ho detto una fesseria io. Volevo dire, la metto, diciamo, una nel positivo e una nel negativo, così dici, in serie. Sì. Guarda che stiamo parlando di corrente continua, non è un filtro in corrente alternata. Un filtro in corrente alternata, un inductante, un induttore, chiamalo come vuoi, no? A una certa frequenza lo vede come una grande resistenza e quindi non cortocircuita, chiaramente, filtra solamente quelle frequenze, cioè filtra un senso di pendenza di biottava, capito? Siccome qui stiamo parlando di corrente continua, non puoi mettere in corto, è un preso vero. Sì, no, ho detto la fesseria, stavo pensando a un'altra cosa, però quello che ti voglio dire io, considerando il diametro di questa bobina, considerando il diametro del filo della bobina, la composizione della bobina, cioè io l'ho strozzo l'uscita, siccome deve richiedere delle grosse correnti l'alimentatore, cioè ha necessità l'apparecchio di avere le grosse correnti, non è che l'ho strozzo il filo. Lo strozzi? Cosa significa lo strozzi? Fammi capire, lì hai una sezione di quasi un millimetro nel VK200, ma è un po' come un fusibile, no? Ecco, fatti questo calcolo, solamente che è avvolta all'interno della ferrite. La funzione la fa con la corrente che passa, lì ci possono passare 40 ampere, capito? Fusibile, allora a questo punto il fusibile niente, non si vedrebbe nulla. No, allora tu mi hai detto un millimetro, lo spessore del cavo della VK200 è un millimetro. No, quello è 0,5 neanche. No, ma è un pezzettino poi di quel metallo nobile, no? È rame con bronzo fosforo. Quindi no, tranquillo, già provate che supportano correnti anche di 50 ampere. Non c'è problema. Probabilmente se poi richiedo di correnti di 250 ampere non te lo reggi. Capisci? No, ma ti ho fatto l'esempio del fusibile. Quanto è sottile il filo del fusibile? Eppure reggono 10, 20, 30, 50 ampere, hai visto? Sì, non lo metto in due, però io, siccome questo lo metto in uscita, diciamo vicino alla connessione dove attacco l'alimentazione esterna, diciamo, proprio all'ultimo pezzo dell'uscita, dove ci sono i poli d'ingresso dell'apparecchio. E ho pensato, no, è troppo sottile che mi riduce la corrente d'uscita. Io non ho mai sentito questa cosa. I migliori alimentatori professionali ci sono quel tipo di induttante, tranquillo. Se poi naturalmente superi certe correnti si acchiappa un toroide che spazia da 0 a 100 MHz, che poi non esiste, vabbè, non esiste, molte volte li fanno tutti quelli, avvolgono sopra una spina di filo di un millimetro. Ma tu non devi richiedere quelle correnti, quanto devi richiedere? 25 ampere, 30? Almeno 25 dovrei richiedere. Non le corica manco il pelo. Va bene. Oh, scusatemi un attimino che mi hanno chiamato, ci sentiamo dopo. Dai, riprendete voi. Avanti, Luca. K, te sono qua, dai. Mi sa vivo. Sì, in carità. Luca. Meglio, va? Vita, dove sei? C'era le figlie, dove stava piangendo, non le sentite. Una piange, l'altra dorme. Sicuramente volava qualcosa. Bene, veda. Sì. prendere. Prello. Cioè, le 8:20. Va bene, dai, vado a cenare, sentiamo per tutti. Ci sentissimo, Senores. Yeah, ciao, va. A più tardi, alla prossima, ciao. Però faccio un pezzo di batteria. Ma la va, detto, manda. Ok, il salire. Ho soprattutto la passione della chitarra, piccolo.